falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi vi porto fuori dalla legge, perché il colpo d'ala di cui parliamo oggi in realtà è una grande rapina. Una grande rapina fatta da un signore che si chiama Ronnie Biggs, che ha avuto una vita veramente interessante, perché tutto quello che è avvenuto dopo la sua rapina è stato fuga in giro per il mondo, una collaborazione con i Sex Pistols, figli concepiti con il solo scopo di non finire in galera, il tutto partendo dalla rapina del secolo, perché lui, Ronnie Biggs, è uno dei 15 componenti che presero parte a questa leggendaria impresa. Siamo soci o no? Oddio, se non ti fidi completamente di me, io non mi fido affatto. Bene, abbiamo jobbato dei banchieri e ora siamo in una stazione ferroviaria. Che c'è in una stazione? Ci sono i treni e... Oh, madre di Dio, tu tiri all'ora di Crimea! Tu sei impazzito, seringare un treno in moto, non si può fare! Perché no? Beh, non è mai stato fatto, no? No. Questo era un film interpretato da Sean Connery in cui si parla dell'oro di Crimea, una rapina ambientata nell'Ottocento, quando i treni vanno ancora a velocità ridotte e quindi se hai un buon cavallo è possibile saltare sul treno in corsa, e come facevano i banditi quando assaltavano le diligenze. Bene, noi invece vi raccontiamo una storia ambientata in un'epoca moderna, nel 1963, e i treni sono ben diversi, e progettare un assalto al treno è un'impresa molto più complessa, con molte difficoltà da superare, ma proprio perché questa sembra un'impresa disperata è altrettanto inaspettata. Ma partiamo dall'inizio di questa storia, quando Ronnie Biggs, appena diciottenne, si arruola nella RAF e dopo 2 anni viene buttato fuori con disonore per diserzione. C'è una generazione di uomini nati intorno agli inizi degli anni 30 che erano troppo giovani per combattere in guerra e quindi non ebbero mai la necessità di mettere in gioco la loro lealtà. Questa mancanza di lealtà nei confronti della legge investe una generazione di inglesi che si arrangia per tirare avanti, magari affidandosi a piccoli furti, ma alcuni di questi diventano dei professionisti. Ronnie Biggs, che va in carcere per essere stato arrestato per un furto d'auto, ne conosce uno, si chiama Bruce Reynolds, che è venuto a sapere che una volta alla settimana un treno postale lascia la città di Glasgow per dirigersi a Londra con un prezioso carico, perché un carico fatto di posta ma anche di valori, perché i privati cittadini hanno l'usanza condivisa in quegli anni un po' dappertutto di affidare i loro risparmi alle poste, come ci ricorda adesso un anziano dirigente delle poste di sua maestà britannica. Sono vecchio abbastanza per ricordare di aver lasciato la stazione di partenza. Il treno faceva diverse fermate e in ogni stazione veniva consegnato un sacco pieno di soldi. Sacchi pieni di soldi che salgono a ogni stazione. Siamo nei primi giorni d'agosto del 63. In Scozia si è appena festeggiato il Bank Holiday, cioè significa che gli incassi dei giorni precedenti sono stati più alti. Il treno trasporta una quantità di denaro molto al di sopra della norma. Reynolds sta creando la sua squadra, un gruppo di criminali specializzati in furti. Ognuno ha le sue caratteristiche. Non ci sono spietati assassini, un gruppo di persone che fanno parte della working class inglese, che vive ai margini tra l'anonimato e l'illegalità e che si sta attrezzando. Di questo gruppo fa parte anche Ronnie Biggs, che fino a quel momento non ha mai partecipato a grossi colpi, però l'occasione che si presenta è una di quelle a cui non si può dire di no. The totally gone insane. The youth called the gods unaware. Cosa semplicissima, fermare un treno e derubarlo. Bisogna essere una squadra ben organizzata, bisogna essere in tanti. Reynolds ha preso contatto con Douglas Goody, che verrà considerato come il fondatore della banda. Lui è l'uomo che ha il contatto giusto. Lui conosce quello che tutti chiamano The Ulsterman, cioè l'impiegato delle poste di origine irlandese, che in sostanza rivela il grandissimo movimento di soldi che circola settimanalmente sulle ferrovie inglesi. Goody è un altro di quelli a cui il destino ha già scritto la sua strada. My father wanted me to be a plumber. Mio padre voleva che io diventassi un idraulico. Certo, per me sarebbe stato meglio, avrei avuto un futuro diverso. Ma io non volevo fare l'idraulico, volevo fare il ladro. A Reynolds e Goody si uniscono uno alla volta gli altri componenti della banda. Reynolds decide di coinvolgere nel progetto anche la Southwest Gang, che sembra un nome di una band punk, che invece è un gruppo di rapinatori di banche che ha fatto già diversi colpi e soprattutto ha al suo interno gli specialisti tecnici, quelli in grado di fermare un treno in corsa. A questo gruppo si unisce anche Ronnie, che è un ladro, non è un criminale incallito, è un ladruncolo che intanto sta facendo il carpentiere aspettando la grande occasione per sistemarsi e cambiare vita. Negli anni 50 e 60 c'è una grande esplosione della pubblicità. Viene mostrato un mondo che improvvisamente appare lì a disposizione, pronto per essere comprato. Nasce la cultura del desiderio delle cose materiali. Voglio una televisione, un'auto, una bella casa, una bella vacanza e farò di tutto per ottenere queste cose. E questo è il rovescio della medaglia della pubblicità, perché anche Ronnie Biggs, come molti, entra a far parte della banda nella speranza di avere cose che fino a quel momento non si è potuto permettere. E inoltre lui è utile perché conosce un anziano macchinista in pensione che è in grado di guidare la locomotiva dopo che i ladri se ne saranno impossessati. In realtà poi nei resoconti ufficiali questa figura non risulta, perché all'ultimo momento si dice sia stato lasciato a casa perché aveva esperienza solo di treni a vapore, mentre il Glasgow-Londra era già una locomotiva a motore diesel. Comunque, Biggs entra a far parte della banda dei 15 e si prepara all'assalto del treno. L'ora X è l'8 agosto 1963, peraltro è il compleanno di Ronnie Biggs e lui il regalo se lo vuol far fare dalle poste britanniche. Sono le 3 del mattino, per prima cosa vengono tagliate le comunicazioni telefoniche lungo la linea per evitare che possa essere dato l'allarme. Poi i tecnici della Southwest Gang manomettono un semaforo che improvvisamente segnala il rosso e obbliga il treno a fermarsi in aperta campagna. Non c'è più una via d'uscita. Per Ronnie Biggs non si può tornare indietro. Sta per arrivare il colpo d'ala che cambierà per sempre la sua vita. E io non so se vado via, se resterò, se prenderò il biglietto, io dove andrò, se ci saranno novità, impreviste partenze, com'è difficile. Perché quello che cerchi sei tu. Il falco e il gabbiano. È l'8 agosto del 1963, è scattato un semaforo rosso e il treno postale Glasgow-Londra con il suo carico prezioso è stato appena fermato in aperta campagna da una banda di 15 rapinatori, di cui fa parte anche il nostro Ronnie Biggs. I sogni stanno per realizzarsi per questi uomini che per sopravvivere fanno il carpentiere, il fioraio, il macellaio, lavori semplici ma faticosi. Meglio fare una bella rapina e sistemarsi tutta la vita. E in realtà Bruce Reynolds non crede che quel colpo possa cambiare la vita di tutti, perché dividere un bottino per 15 significa avere una cifra importante, ma non tale da fare la differenza. E poi non si sa esattamente quanti soldi viaggino quella notte su quel treno. Non sapevamo ancora quanti soldi avremmo rubato. Potevano essere 500.000, 800.000 oppure solo 200.000. Rapinare un treno è una cosa che in Inghilterra non accade da 125 anni. È un assalto come quelli che si facevano nel Far West, per cui il treno in quel momento non è sorvegliato, non ci sono guardie armate a difenderlo. È una cassaforte viaggiante che è lì pronta per essere aperta e svuotata. Basta solo avere il coraggio di farlo. People have this kind of Robin Hood fantasy. La gente ha sempre visto questa grande rapina al treno con un occhio romantico e pieno di avventura, un'impresa degna di essere raccontata in un film. Ma la realtà era ben diversa. Queste persone erano criminali professionisti che volevano solo rubare per se stessi. Con lo scattare del semaforo rosso anche le vite dei 15 rapinatori si trasformano. Il treno viene fatto fermare su un piccolo ponte al di sotto del quale passa una strada, e lì c'è il furgone in cui verranno caricati i sacchi. Il gioco si fa duro quando il manovratore Jack Mills si rende conto di quello che sta accadendo, tenta di reagire, riceve una bastonata sulla testa che lo ferisce e gli fa perdere i sensi. Il Reynolds e gli altri hanno dichiarato che non avevano nessuna intenzione di essere violenti quella sera, ma è un po' l'adrenalina, un po' la paura per il momento. E poi questo Jack Mills andava in qualche modo reso inutilizzabile. Non l'hanno mica ammazzato, anche perché Ronnie Biggs peraltro rimane al di fuori del vero e proprio assalto, non partecipa lui all'aggressione del manovratore. Furono violenti, aggredirono gli impiegati postali. Non fu una cosa che accadde per caso. Entrarono in quel treno e furono violenti e colpirono le persone. Insomma, qualche ferita, nessuno che rischia la vita. E ci fossero state delle guardie armate, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Ma ripetiamo, all'epoca nessuno si aspettava che un treno postale fosse rapinato, quindi non c'era nessuno a difenderlo. Quando viene aperto il vagone principale, è quello con il simbolo della Royal Mail stampato sul fianco, il tesoro è lì, chiuso dentro a grossi sacchi nelle poste inglesi. Quei sacchi sono tantissimi, molti di più di quello che Reynolds, Goody, Biggs e gli altri si aspettassero. È una montagna di soldi che poteva cambiare la vita di tutti. Quando vedi il primo sacco e accanto a questo decine di altri sacchi, e quando ne aprii uno e vidi che invece delle lettere c'erano dentro migliaia di banconote, fui veramente sbalordito. Catena umana scarica i 120 sacchi pieni di soldi dal vagone del treno postale sul furgone, che poi per loro fortuna è praticamente un camion che è parcheggiato nella strada sottostante. È una catena umana che svuota il treno il più velocemente possibile. Sanno che le comunicazioni sono interrotte, quelli sul treno sono legati e imbavagliati, ma comunque in questi casi è meglio fare in fretta e togliersi più velocemente possibile dai piedi. Ognuno di noi stava facendo il proprio lavoro in silenzio. Eravamo tutti concentrati e attenti a non commettere errori. E quando il camion partì, tirai un sospiro di sollievo mentre il camion si allontanava nella notte. La banda si nasconde in un casolare abbandonato, cominciano a contare i soldi, e lì non c'erano solo i soldi degli incassi settimanali, ma anche una quantità enorme di banconote rovinate che le banche stavano mandando al macero. Biggs e gli altri non riescono a credere ai loro occhi, perché nessuno di loro si aspettava di trovare così tanti soldi su quel treno. Rimarranno una settimana in quella fattoria e per ingannare la noia ci ritrovano a giocare a Monopoli con i soldi veri, quintali di banconote banconote che vengono rigorosamente riordinate e contate per essere divise tra tutti i componenti della banda. Intanto la notizia monopolizza tutti i titoli dei giornali e dei telegiornali. In Inghilterra non si parla d'altro, non si sa neanche di preciso quanti soldi sono stati rubati. Nei giorni successivi le banche iniziano a fare i conteggi, ma di ora in ora la situazione peggiora. Per le banche. La prima notizia disse che erano state rubate circa 200.000 sterline. Poi la cifra cominciò a salire. Ogni due ore aumentava di mezzo milione. Uno, uno e mezzo, due. Alla fine la cifra definitiva venne dichiarata. 2.5 milioni di sterline. Era una cosa sensazionale. Facciamo due conti. 2.5 milioni di sterline del 63 sono pressappoco 60 milioni di euro a oggi. Diviso 15 sono 4 milioni a testa, pressa poco. In quei giorni l'assalto al treno viene definito la rapina del secolo. L'opinione pubblica in Inghilterra si divide. Da una parte ci sono quelli che deplorano l'assalto, per esempio per la brutalità con cui è stato picchiato Jack Mills, l'anziano macchinista. Dall'altra parte ci sono quelli che invece vedono la banda come un gruppo di novelli Robin Hood che hanno fregato le istituzioni, hanno beffato la polizia inglese, che non riteneva possibile compiere un'impresa così temeraria. E poi in più, insomma, se la vittima non è un privato cittadino ma sono le banche, è più difficile francamente commuoversi. E adesso però c'è un altro problema, perché la polizia vuole catturare i banditi e recuperare i soldi, e quelli invece i soldi se li vogliono andare a spendere. Restate con noi e vi diremo come è andata a finire. Stiamo raccontando la storia della rapina del secolo, la rapina al treno Glasgow-Londra attraverso la vita di uno dei suoi protagonisti, Ronnie Biggs. È un carpentiere con qualche piccolo precedente per furto, che era uno dei 15 che si sono divisi il malloppo. 2.5 milioni di sterline, 60 milioni di euro da dividersi. A Biggs toccano 150.000 sterline, cioè 4 milioni di euro di oggi. Intanto c'è una taglia di 10.000 sterline e la banda intanto ha lasciato il casolare in cui è rimasta rintanata per una settimana, si è separata. Però non si sono resi conto che il periodo trascorso nel casolare di campagna ha attirato l'attenzione della gente del posto, che non è abituata alle persone di città. I banditi erano nascosti, ma la voce di qualche strano movimento attorno a quel casolare comincia a girare e arriva anche alla polizia locale. People in the countryside. Oh, frankly. La gente di campagna è amichevole, accogliente ma molto pettegola. Se uno vuole stare nascosto, in disparte, non farsi notare, deve rifugiarsi in grandi città dove tutto rende le cose più anonime. Lo stare in un paesino fu un grosso errore. E si apre un circo mediatico, perché anche se in quegli anni c'era solo i giornali e la radio, il circo mediatico si apre, anche se magari non con i risvolti antipatici e da sciacallaggio che vediamo oggi nei casi come Avetrana, Cogne, insomma i casi sui quali la stampa e la televisione magari campa per mesi. Comunque si parla molto della rapina e dei 15 che sono in fuga. Which side are you on, the cops or the robber? The robber, because I think they were clever. But he's dishonest. Well, I'm still on his side. What about you? Whose side are you on? Police. Why? Oh, man, the drunk needs to get his own punishment. Le opinioni di questi bambini, come abbiamo detto prima, fanno capire che anche la gente è divisa tra quelli che stanno dalla parte dei ladri e quelli che stanno dalla parte della polizia. La banda fa un errore. Prima di fuggire avrebbe dovuto dare fuoco alla fattoria per cancellare ogni traccia. Non accade e la polizia trova le impronte digitali di tutti i componenti della banda. In pochi giorni scatta la caccia all'uomo in tutta l'Inghilterra e in pochi mesi tutti i 15 responsabili della rapina vengono catturati e chiusi in carcere, anche se i soldi non vengono recuperati. E poi c'è qualcosa che deve ancora succedere, ma intanto la moglie di Ronnie Biggs ricorda il momento dell'arresto del marito. Un gruppo di poliziotti, circa 8, arrivarono a casa. Io avevo la porta chiusa, ma loro la sfondarono. Cercavano mio marito e io dissi loro che era al lavoro e che lo avrei chiamato. Loro mi dissero di stare seduta e di non fare nulla. Per arrestarlo, aspettarono che Ronnie tornasse dal lavoro. Stood around the room until Ron came home from work. Hey, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione, e che serva da lezione. Senti perseguitato, offeso, amareggiato. Allora, in prigione, in prigione, in prigione, in prigione. Sì, proprio tu in prigione. E che ti serva la lezione. Quindi i componenti della banda sono stati tutti arrestati meno di un anno dopo aver compiuto la rapina. Nell'aprile del 64 i giornali inglesi escono con un titolo sensazionale: 307 anni di carcere, perché un anno dopo in Inghilterra il processo è già stato fatto, mica come in Italia. Le pene vanno dai 20 ai 30 anni di carcere. Biggs viene condannato a 30 anni e rinchiuso nel carcere di Wandsworth. Per lui e i sogni sembrano svaniti dietro alle sbarre di una cella. Ma non è così, perché certe persone hanno dei colpi d'ala nel bene e nel male che ne caratterizzano la vita straordinaria, e se non fosse così non parleremmo di loro. Così, dopo aver trascorso 15 mesi in cella, Ronnie Biggs una notte riesce a evadere dalla prigione con una scala fatta di corda. Quando il furgone arrivò vicino alla prigione, io, che ero riuscito a salire sul tetto, feci scendere la scala. Quelli del furgone avevano preparato un cubo di metallo che avevano appoggiato sul tetto. In questo modo, appena mi accorsi che erano pronti, riuscii a saltare senza farmi male. Dentro al furgone c'era una scatola e io mi nascosi lì dentro. Così, con una fuga rocambolesca, Ronnie Biggs riesce a beffare i secondini di Sua Maestà Britannica e riesce anche a lasciare l'Inghilterra. Si rifugia a Bruxelles, dove un medico compiacente gli fa una plastica facciale, dove lo raggiunge la moglie con i figli. Ma lui non si sente sicuro in Europa, così va in Australia, dove ci rimane 4 anni. Dei soldi dell'arpina è rimasto ben poco, 7.000 sterline, però lui intanto ha riacquistato la libertà. Trascorre 4 anni in Australia. Nel 1970 si trasferisce a Rio de Janeiro. Scotland Yard è sempre sulle sue tracce. Nel 74 riceve una soffiata secondo la quale Biggs è in Brasile. Il detective Jack Slipper vola in Brasile nella speranza di catturarlo. Chiede l'estradizione, ma al suo arrivo ha un'amara sorpresa. Perché Biggs, che nel frattempo ha lasciato la moglie, si è rifatto la vita con un'azienda edile, si guadagna da vivere in modo onesto e ha preso le sue precauzioni per il suo futuro. Intanto ha fatto un figlio con una ballerina di nightclub brasiliana e questo sembra un dettaglio da gossip. In realtà questa è la sua salvezza, perché le leggi brasiliane non consentono l'estradizione a un padre di famiglia con un bambino piccolo da mantenere. Così Slipper torna in patria e Biggs, negli occhi dell'opinione pubblica, diventa di nuovo un eroe maledetto che è capace di dividere la gente tra quelli che sono dalla sua parte e quelli che invece lo vorrebbero in galera. God save Monday, oh man, and dances on the money for doing nothing. Yes, but I would like to work and I'm not allowed to by the authorities. You've got all the lollies still open. What? You got all that lolly from the job. What job? You mean the train robbery? Oh, that's not that one. Questa è una conversazione, quasi il tentativo di un'intervista che lo stesso Ronnie Biggs vuole fare ai Sex Pistols a Rio de Janeiro. Perché qui sono è un insieme di geni che si uniscono, no? Perché i Sex Pistols erano rimasti senza cantante, senza Johnny Rotten, in qualche modo volevano incidere un pezzo, e quel genio di Malcolm McLaren pensa a Ronnie Biggs, che peraltro canta anche bene, almeno a livello di Johnny Rotten, per questa canzone e un video famosissimo girato ovviamente in Brasile. La canzone peraltro fa anche strada, arriva al settimo posto nelle classifiche inglesi e fa il giro del mondo, perché l'idea è forte, il pezzo è bello e Ronnie Biggs si rivela anche essere un ottimo cantante. Dopo quello che è successo non ho più il permesso di lavorare, non posso muovermi liberamente dopo le 10 di sera, non posso andare in un bar e bere in pubblico, non posso votare. L'unica cosa che posso fare per mantenermi è concedere interviste a giornali e televisioni. Quindi il Brasile diventa una dorata e calda prigione in cui Biggs trascorre buona parte della sua vita. È libero formalmente, però non può spostarsi. Nel 97 Inghilterra e Brasile cambiano le leggi sull'estradizione. Gli inglesi riprovano a portare in patria Biggs, ma non ce la fanno. Anche lì c'è una storia rocambolesca di un motoscafo finito senza benzina. Lui è il primo a dichiarare di non opporsi all'estradizione, perché anche lui comincia a essere stanco di sentirsi un fuggitivo, ma comunque il Brasile non vuole lasciarlo andare via, fino al 2001, in cui è lui, ormai 72enne, stanco e malato, che decide spontaneamente di tornare in patria. All'aeroporto lo aspettano gli agenti di Scotland Yard e così Biggs viene riportato nel luogo dove avrebbe dovuto trascorrere buona parte della sua vita, le prigioni inglesi. Nel 2009 viene rilasciato per motivi umanitari. È colpito da diversi infarti, insomma è il momento del declino, incapace di camminare, di parlare, non è rimasto più nulla dello spavaldo inglese che cantava nel video dei Sex Pistols e indica al figlio con le dita le lettere dell'alfabeto sul foglio per farsi capire, e fa un'affermazione che dà la sensazione di una resa. Crime doesn't pay. Il crimine non paga. Alla fine della sua vita Biggs sembra essersi pentito di come ha condotto la sua esistenza, ma sono in molti a pensare che anche questa volta voglia comunque prendersi gioco di tutti quelli che per oltre 40 anni gli hanno dato la caccia. One of Britain's most notorious criminals, Ronnie Biggs, has died at the age of 84. He was jailed for his part in the £2.5 million Great Train Robbery of 1963. After escaping from prison, Biggs spent more than 30 years on the run, most of it in Brazil, before returning to Britain in 2001. Duncan Kennedy reports. Ronnie Biggs muore a 84 anni nel dicembre del 2013, dopo una vita avventurosa che comunque valeva la pena di vivere, anche perché non ha fatto del male a nessuno, è stato un fuggitivo dopo essere stato uno dei 15 che hanno dato l'assalto a un treno, è evaso, è stato catturato, è stato un uomo libero che ha vissuto in uno dei posti più belli del mondo, è stato un eroe punk che Scotland Yard aveva tentato addirittura di rapire nel 81, nella storia di cui vi ho detto prima, con il motoscafo rimasto senza benzina nel mare. E insomma è un uomo che ha sempre dichiarato di aver speso tutto il suo bottino subito, ma che in realtà ha sempre vissuto una vita più che dignitosa senza mai mettersi a lavorare sul serio. E su come andò veramente quella notte dell'8 agosto 63 nessuno saprà mai molto, perché Ronnie ha alcuni segreti che ha deciso di non rivelare mai. Abbiamo scelto di raccontarvi ogni giorno storie di vite straordinarie, anche se alcune sono ai margini della legge, come quella di Ronnie Biggs. Noi vi aspettiamo con altre storie che vi chiediamo di segnalarci via mail a falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a cercarmi e a cercarci in tutti i nostri social. Insomma, se mi cercate, mi trovate. A domani. The best I ever had. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.